in tutta l'Italia. I compagni arrestati sono 5 che sono stati arrestati su mandato appunto per l'associazione a delinquere, e quindi per loro non ci sarà alcuna convalida dell'arresto, perché il PM, cioè chi ha fatto le indagini, ha già chiesto permesso al GIP e li ha fatti arrestare. Invece per un sesto compagno preso a Ferrara era un semplice fermo, e stamattina si decide se convalidare l'arresto per davvero, perché è uno dei personaggi di cui si parla di più nel giornale di questi giorni, perché il compagno, Francesco si chiama, che avrebbe questa accusa specifica dell'attacco contro l'ENI, per cui valuteranno gli elementi su questa cosa qui e decidono se portarlo in carcere o meno, o se diventa, se nella lista dei semplici indagati, che sono 26 se non sbaglio, dell'indagine per associazione a delinquere. La struttura è quella classica di questi anni, e cioè il PM vede le attività dei compagni sul territorio, tenta di aggiungere l'attività dei compagni sul territorio, le lotte, quindi nel caso specifico tantissimi CIE, ma anche la guerra, infatti si parla molto dell'ENI, tenta di aggiungere una serie di attacchi compiuti che non hanno firme particolari o altre, tenta di attribuirle ai compagni e ci monta su un reato associativo. Una volta si utilizzava l'associazione sovversiva se non la banda armata, adesso queste cose si vede che non reggono e partono direttamente, come è successo anche a Torino poi l'anno scorso con l'associazione a delinquere. In questo caso è un po' strano, perché un'associazione a delinquere con finalità di terrorismo non so bene tecnicamente come regga, però adesso non sono un tecnico e quindi non lo devo sapere. Cioè, il fatto che è stato un attacco molto molto grosso verso la realtà, verso un pezzo della realtà bolognese particolarmente attiva su questi fronti di lotta. Tra le mille robe, bisogna dire che se non ci fossero stati in questi anni questi compagni che proprio fisicamente sono stati arrestati l'altro ieri, pochissimo sapremmo per esempio sull'attività di Giovanardi dentro le CIE, perché le informazioni e quindi poi le iniziative di lotta sui CIE in zona erano cose che facevano questi compagni qui, che hanno impostato anche la battaglia specifica su Giovanardi e la Misericordia, che poi la battaglia gemella in qualche maniera di quella sulla Croce Rossa, su Connecting People che gestisce altri centri. E nel caso poi di appunto di questa retata non si parla soltanto di iniziative contro i centri, ma appunto anche di altri. Se guardate un po' i siti di movimento e anche i ritagli di giornale, insomma, che sono stati più o meno pubblicati, appunto molto si parla dei CIE, ma anche appunto del lavoro interinale, piuttosto che del ruolo di alcune aziende nello sfruttamento delle risorse in altri paesi del mondo e più nelle guerre. Quindi la struttura grossa, insomma, è quella dell'ENI, perché i compagni avevano fatto dei presidi proprio recentemente, e poi appunto gli arresti sono scattati dopo un attacco all'ENI che è stato attribuito appunto ad alcuni di questi compagni. Viene un po' da pensare, visto che è chiaro anche da quello che si legge sui giornali, che questa inchiesta è un'inchiesta vecchia, cioè un'inchiesta che va avanti da anni e anni, come abbastanza normale, no? Che di nascosto ci siano delle inchieste contro i vari pezzi di movimento, ed è venuta fuori, hanno deciso di stringere proprio in questo momento qui, in cui si comincia a criticare l'ENI. Viene proprio da pensare, chi tocca l'ENI muore, e questa è una buona indicazione anche per noi. Io so che anche a Roma ci sono state iniziative sull'ENI, ed è una cosa abbastanza importante proprio come impostazione, no? Quando si tenta di capire cosa succede nel mondo, i rapporti che ci sono tra i flussi migratori e la conseguente repressione, quello che succede in altri paesi, poi adesso che c'è la guerra in Libia, se riuscire a fare dei nomi e dei cognomi, particolarmente importante, perché riesce a creare mobilitazione, anche a dare precisione alla mobilitazione, far sì che le nostre parole d'ordine non siano soltanto in qualche maniera delle cose astratte di buona volontà, ma che provino anche degli obiettivi precisi. L'altro elemento in più, che invece è abbastanza nuovo in questi ultimissimi anni, è che a questa presunta associazione a delinquere attribuiscono anche un organo di stampa, che ovviamente deve essere per forza clandestino. In realtà parlano di Invece, che è un mensile molto interessante, secondo me, che si trova comunemente in tutte le distribuzioni di movimento, ed è clandestina esattamente come tutti i giornali di movimento, cioè viene distribuito nelle nostre distribuzioni, nelle piazze, viene stampato in proprio. E il fatto di descriverlo come clandestino dà un po' più la giustificazione anche mediatica, no? Per arresti, sì. Perché dà l'idea, insomma, di qualcosa che circola in maniera ombrosa, quando in realtà i giornali la gente le fa perché vengano letti, e perché vengano letti un po' da tutti. Io so che a Bologna stanno organizzando una serie lunga e fitta di iniziative per dare solidarietà ai compagni che sono stati arrestati. Tenete conto che l'altra cosa che prima ho dimenticato di vedere nella lista, che hanno pure sigillato il fuori luogo, cioè il circolo dove si riunivano i compagni che sono stati arrestati, e che è stato il centro veramente di tantissime iniziative, dai dibattiti alle iniziative di lotte. Quindi il fatto che non solo arrestino dei compagni, e non solo che a tanti compagni hanno l'obbligo di dimora da una parte, di divieto di dimora da un'altra, quindi tentando di spezzare delle situazioni di movimento, come è successo spessissimo poi nell'ambito anarchico. Io penso soltanto alla situazione pisana, che è stata martellata per anni con inchieste continue e provvedimenti restrittivi continui. Ma in questo caso in più un circolo di movimento in cui c'era un affitto, insomma, i compagni si trovavano, è stato sigillato e al momento inutilizzabile. Quindi è abbastanza importante che da fuori si dia una mano ai compagni di Bologna in due maniere, mi sembra. Intanto e soprattutto proseguendo le lotte. I discorsi che facevano sono discorsi noti e pubblici, in particolar modo su queste iniziative, su questi interessi, insomma, che vi ho accennato prima, e che trovate leggendo informazioni di altri siti di movimento. Si capisce bene quali erano quali ambiti erano diretti in buona parte gli sforzi dei compagni arrestati, e quindi intanto con proseguire quelle lotte, proprio perché loro sono stati arrestati per questo e hanno le mani legate in questo modo, noi dobbiamo metterci le nostre di mano, insomma. E poi l'altra cosa è che sabato, non questo sabato ma quello successivo, era già stato indetto un corteo lì a Bologna, era stato indetto quello dei compagni che sono stati arrestati, e proprio in seguito a delle perquisizioni che erano già scattate un paio di giorni prima, è un corteo contro la guerra, un corteo contro la guerra in Libia, ma con quell'impostazione lì: guerra interna, guerra esterna, chi è responsabile. E quindi, visto che i compagni giustamente hanno deciso di mantenere questa scadenza, i compagni che sono rimasti liberi, secondo me è importante che ci si vada in tanti, insomma, per dimostrare che le lotte non si fermano come gli arresti, ma se possibile le si moltiplica. Quindi ci sarà questo corteo sabato 16, e so che ci saranno scadenze di lotta più o meno tutti i giorni a Bologna la settimana prossima, e i compagni faranno uscire un calendario. Io quindi vi invito a guardare nei siti di movimento oppure ad ascoltare le radio per sapere esattamente quali sono, e sarebbe buono partecipare. Chiaramente per chi è lontano, a parte la scadenza grossa del 16, bisognerebbe appunto parlare degli arresti, ma soprattutto dei temi che hanno portato agli arresti, in qualsiasi città, in qualsiasi momento, perché quello è la maniera migliore per stare vicino a chi è arrestato. Io conosco bene alcuni degli arrestati e so benissimo che dentro alla cella guarderanno la televisione, leggeranno i giornali, riceveranno delle lettere, e se in mezzo a tutte queste trovano un presidio sulle da una parte, un'iniziativa da un'altra parte ancora, in cui c'è un occhio a loro dentro e un occhio alla lotta in generale, è sicuramente la cosa che gli può far più piacere, insomma, che può dare anche più senso al fatto che uno si sbatte e ad un certo punto finisce anche dentro. D'accordo. Tutto qua, direi, su di loro. Noi intanto ti ringraziamo per questa corrispondenza, e poi proveremo anche a sentire direttamente i compagni di Bologna per avere un calendario delle iniziative da qui al 16. Ovviamente tutta quest'opera di repressione si inserisce in questo contesto di moltiplicazione dei lager, dei CIE, e si hanno notizie anche di perquisizioni non solo a Bologna ma anche in Salento, per sì, cui sì, ovunque le perquisizioni sono venute anche qui a Torino, a casa dei compagni di qua, perché a parte alcuni indagati non vivono a Bologna, e poi perché tentano di tessere una rete, insomma, per la prossima volta, per dimostrare più in là che magari questo gruppo non era così piccolo ma era più ampio, aveva più ramificazioni. È vero che poi anche il momento in cui è successa questa cosa, cioè dei grossi arrivi, di queste rivolte generalizzate, dentro i centri, visto che poi i compagni arrestati e i generali perquisiti hanno parlato molto delle questioni dei CIE, questo è proprio un momento in cui i CIE sono stati in rivolta. Adesso c'è questa pausa aspettando di vedere se davvero ci sarà questa regolarizzazione proprio strappata a Maroni, però è un momento in cui è evidente. Poi i fatti di Manduria che avrete seguito, in cui sabato scorso grazie all'intervento dei compagni accorsi avanti, entrati nel centro, tanta gente è uscita, e quindi che le rivolte di dentro si sono saldate con la situazione fuori, una roba che fa una paura fottuta al ministero. Quindi questa retata può essere anche un segnale in questo senso, un modo per togliere l'energia al movimento, certo, per intervenire su questi temi scottanti che il ministero non sa assolutamente come gestire, e fa fatica, e basta una scintilla che possiamo dare anche noi in molti casi, perché succede un macello. Sicuramente mettere un po' di gente dentro e costringere tutti noi a parlare di repressione e arresti invece di essere di fronte a Manduria, di fronte a Corso Brunelleschi, di fronte a, oppure nelle strade a fare altro, è insomma un modo per farsene un po' più tranquilli, insomma, per il ministero e per il governo. Certo. Ascolta, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e ci aggiorniamo nei prossimi giorni anche per quanto riguarda la situazione del CIE a Torino, insomma. Va bene, ok, grazie mille, a presto. Arrivederci, ciao. Ok, ciao.